chi sarebbe costui? Ciao giù, Natalino. Ciao Natalino, beh, adesso acceso, due minuti nemmeno. Sto aspettando a guardare di nuovo l'altra partita del film. Bella quella di ieri notte. Quella di ieri notte è bellissima. Adesso, oggi hanno giocato alle 3, hanno giocato Svizzera-Galles, hanno pareggiato 1-1. E quella della Svizzera, adesso la prossima partita con l'Italia. E quando gioca l'Italia con la Svizzera? Ma di preciso non te lo so dire, ma è solo questione di qualche giorno e basta, addirittura, che si può immaginare. Non lo so di preciso, ma è solo questione di qualche giorno. Allora sai che mi ho fatto la prolunga per... sono salito in campagna, ho trovato varie cose e mi ho fatto la prolunga per questo microfono. Hai fatto bene. Se hai già fatto vuol dire va bene, perché sta funzionando benissimo. Alla grande. E a 5 il microfono, Questo è il 3009, infatti, con l'MB più 4. Cosa ti volevo dire? E questa la puoi girare come vuoi, mi puoi buoni pure quelli che erano omologati tempo fa, che erano alla rovescio. Si può girare, mi? Ho capito. Sì, sì, no, va bene, va, altro che se va bene, alla grande. Un'altra bella notizia per la mia famiglia. Mio nipote è stato convocato, cioè è stato promosso per andare a Tokyo, alle Olimpiadi di Tokyo a luglio. Di lusso, quelle sì che sono soddisfazioni, giù. Sì, era già campione, campione d'Europa l'anno scorso, più il campione italiano quest'anno, e allo stesso tempo medaglia di bronzo ai campionati d'Europa, sempre quest'anno. Infatti quello lì l'hanno fatti in Russia da poco. Adesso a luglio ci sono le Olimpiadi e lui si è qualificato per le Olimpiadi. Infatti oggi c'è anche l'articolo sulla Nuova Sardegna, anche al computer si vede, dai, il giornale della Nuova Sardegna. Lo so. Ho piazzato anche il rosmetro che praticamente funziona con tutti e due gli apparecchi. Di lusso ho fatto una bella cosa, dato che non c'era nessuno in frequenza, mi sono messo a fare. Hai fatto bene, come hai fatto il rosmetro? L'hai messo collegato a tutti e due? Eia! Praticamente se parlo con l'altro funziona ugualmente, perché l'ho messo nel commutatore d'antenna, no? E qualsiasi apparecchio sia attaccato lo fa funzionare. Se hai il commutatore d'antenna, sì, certo, questo sì. No, non avevo capito bene. Io pensavo, ma come hai fatto a mettere il rosmetro su due apparecchi? Se non c'è il commutatore d'antenna, invece tu mi stai dicendo che il commutatore ce l'hai, per cui va bene, certo che va bene così. Infatti, così lo tengo sotto controllo. Sì, già è una cosa utile, dai. Già si può tenere, tanto per quello che si perde non è un granché. 0,2 dB, cosa vuoi che sia. Però hai il modo di tenere sempre sotto osservazione l'apparecchio. E poi si illumina pure, è bello, come l'SX200. È bello, è così, è bello, sì, lo so. Anche il mio si illumina, il mio è K, aspetta com'era, KW520, e fa tutto, fa tutto, anche gli HF, anche i corsi, VHF, tutto quanto, qualsiasi frequenza. Io ho trovato questo e questo mi sono preso. Adesso non so neanche cosa fare. Va benissimo, e per la 27 ce n'è in abbondanza. Poi arriva fino a 200 quello, sicché 200 mega va benissimo, non c'è problema. Alla grande. Invece il mio fa HF, UHF, VHF, tutto quanto fa. Per cui anche cosa, ad esempio, anche come si chiama il 446, guarda, si dice, come si chiama, il BMR, anche quello posso misurare volendo. Se fa anche i 400, sì. Ok, fino a 520 mi sembra che vada quello che hai tu. Beh, non lo so fino a quanto arriva, però fa di UHF, poi fa di HF e VHF, fa tutte e tre le versioni. Va benissimo così, alla grande, non c'è problema. Bene, bene, bene. E così, se voglio ascoltare le altre cose, uso l'altro che c'è il frequenzimetro e tutto, e sono sicuro di quello che faccio, capito? Sì, beh certo, anch'io ce l'ho un pezzo di uno spessore di H155, io saranno 2 metri, e adesso da lì mi faccio gli spezzoni proprio per il coso, per il bene, per il grosmetro, mi faccio gli spezzoni già così, perché quelli che ho adesso sono della cosa del 58, è del 58 gli spezzoni che sto usando sempre, che poi non è che vanno molto bene dal momento che io ho la Camille come discesa di antenna, per cui almeno l'H155 si avvicinano moltissimo come velocità di trasmissione dei cavi, perché uno è 0,83 e il 155 è 0,81, per cui siamo vicinissimi anche come velocità di trasmissione del cavo. E infatti ne ho due fatti a 155 di spezzone e due a RG58 qua, ma li devo controllare perché non mi stavano funzionando bene giù, e quindi li devo controllare, me ne sono dimenticato, cioè avevo il saldatore in mano e me ne sono dimenticato. Ok, va bene. Io ho un tanto di temperatura digitale, tutto quanto, e fa da 90 fino a 450, una cosa così, di temperatura, adesso non me ne ricordo, insomma, regolabile, poche parole, come voglio io, ma a me di solito lo metto intorno ai 300-320, perché è quello che serve, la temperatura che serve per la fusione dello stagno, e dunque va bene così. Ottimo, ottimo, veramente bello, un bellissimo saldatore che funziona con la meraviglia, ma veramente bene funziona. E poi tra l'altro stamattina mi sono dovuto fare una bella passeggiata, sono andato e mi ho comprato anche un pozzetto o congelatore, così allo manco in caso di necessità abbiamo il pozzetto anche, perché quell'altro sì è stato riparato ma non funziona proprio bene bene, cioè non diciamo che non funziona come frigorifero e basta, in poche parole, come ghiacciaia non va bene. Sì, se la metti già ghiacciata, ma la carne già congelata magari te la tiene a temperatura, però se metti i gelati ad esempio, o se metti una bottiglia d'acqua non te la congela. E non c'è niente da fare, non te l'ha detto quello. Quello è bravo mi facendo quei lavori lì. Lo so, sì, ma me l'ha fatto, il lavoro l'ha fatto, non l'ha fatto. Però evidentemente ormai il frigorifero ha i suoi anni, c'erano 10-12 anni, è un peccato perché è un frigorifero che costa un sacco di soldi, oggi come oggi costa 1.300-1.400 euro, sì, che io l'avevo pagato mi sembra 1.100-1.200, una cosa del genere, però l'ho già sfruttato per 10 anni, 12 anni, è grande, è di quelli dell'americana, un armadio, tu immagini già di un armadio a due sportelli, e così è quello, già lo conoscerai. Ehi, come il mio, metà frigo e metà congelatore. Sì, sono belli qui. Ma è tu che ha pigliato il bottetto, al manco ci vedi che non andava la situazione, ti pone tutto nel bottetto. Sai Ricciardo, non hai di bigli la roba, ma fa puzza di un frigorifero. beh, non di certo, se ti hanno pagato 150 euro di garri, carne e pesci, perché si erano scongelati durante la notte, è chiaro che cosa ne fai? La cosa scongelata non è che la puoi ricongelare, no? E allora mia moglie ce l'ha messa alla mondezza, per cui oggi sono andato, stamattina ne ho comprato un altro, subito senza stare lì a perdere tempo, un pozzetto piccolo, ma che ci sta molta più roba di quanto ci sta ad esempio in quel frigorifero, perché il frigorifero è voluminoso, è grandissimo, però uno sfottello è il freezer e un altro sfottello è il frigo, per cui, ma come quantità la carne ci sta benissimo nel pozzetto, che poi tra l'altro un altro ancora ce l'ho, ma è sotto scala e non lo posso togliere perché se avevo fatto un mobile su misura dovrei smontare il mobile per togliere il pozzetto, ma non me ne fotte nulla, quello è addirittura largo un metro, questo invece è largo circa 60 centimetri, profondo 55, una cosa così, alto 85, tu immaginati una lavatrice, ecco la stessa misura di una lavatrice, preso identico. E allora gli avvenitati deve dare roba giù, a futidini, pittina. Io lo grido, ma se ci ho messo una bottiglia d'acqua, la ghiacciata nemmeno di un'ora, proprio l'ho fatta ghiaccio, nemmeno di un'ora. Naturalmente l'ho messo al massimo per vedere se funzionava come si deve, no? Ma per dire, nemmeno un'ora c'era già il ghiaccio nella bottiglia d'acqua. E infatti, ma bevuria di giustizia, se chi non riesce a cavannino ci voleva, così almeno c'è la roba tranquilla giù. Certo che sì. Non è che non riesco, dovrei fare un sacco di lavoro, ma ti sembra che io faccia un lavoro che mi costa né più né meno quanto mi può costare a livello di fatica, no? Mi costa quanto mi può costare lo frigorifero. Sicuramente grazie a Dio, di problemi di soldi, non ne ho, sono andato, li ho spesi 200 euro e me ne ho comparato, anzi per l'esattezza 199. E infatti, è utile il pozzetto, non c'è niente da fare. Infatti, direi la mia biglia buru io, a chi non si sa mai. Sì, ma ce n'era anche un altro, costava addirittura 180, lì da Truni, 178, per l'esattezza. Ma poi sai dove l'ho comprato? Alla Conad di Città Mercato, lì, con il nuovo negozio di Conad, lì l'ho comprato. Perché l'avevo visto da Truni anche, e lo volevo prendere lì. Però non ce l'avevo a disposizione, è quello che c'è, praticamente, in disposizione non te lo danno. Devo aspettare, dice, e quando me lo consegnate? Guardi, proprio presto può essere giovedì. No, giovedì non mi serve più. Adesso vado, me lo cercato. Se mi dici giovedì, sta trovando, me lo ordino io direttamente su Amazon e ce l'ho in 24 ore quasi. Per cui se lo ordino oggi, lunedì ce l'ho detto. No, giovedì è troppo lontano. Sono andato, ho fatto un altro giretto, sono andato anche da un euro, la stessa cosa. Ce l'avevano in esposizione, però quello che c'è in esposizione non te lo danno. Perché non ne hanno in deposito, capito? E allora se devono fare le pare. No. Ha voluto, ho detto, beh, adesso faccio la cola da vedere come questo nuovo negozio che è Città Mercato praticamente, no? Che non l'ho mai visto da quando l'avevano rifatto, porte di Sassari, volte di Giamma. E in casa ha voluto che ho visto che c'erano anche lì, ho chiesto, sì, ne abbiamo uno in esposizione che non lo possiamo dare, però ne dovremmo avere anche uno in deposito. Infatti hanno controllato, in deposito c'era, se c'è me lo date, e così è stato. Sto guardando, me l'hanno ritirato e l'ho già attaccato tranquillamente. Infatti hai fatto questo. Beh, Arusa, una cosa, ma anch'io mi sono cantato a Città Mercato a vedere lui, c'è un negozio. Oh, mi piace di più prima era più bello, almeno trovavi tutto, oggi la maggior parte è elementare, lì sì c'è qualche cosa ancora, però niente in particolare, diciamo che quando era Città Mercato era molto ma molto più bello per i miei gusti, poi è anche più pratico per la gente, nel senso che lì andavi e prendevi tutto quello che ti serviva, facevi una spesa unica, invece lì la maggior parte lì è alimentare. Infatti anda bene, per cui no. Quando una cosa anda bene la ricolta, non sai quanto è base di Sassari, gli sassarisi sono così, o meglio gli italiani, perché non niente stasera con i proprietari di quelle ucce, con i banchi francesi, che cos'è? E dunque, quando una cosa andava bene, è cortare subito. Bobo. Cosa vuoi che ti dica? E infatti se ti alimentavi non andava, era meglio prima. Infatti, cos'è che hai attaccato adesso? Adesso c'è da vetro, hai attaccato, cos'è successo? No, è che c'è la portante da una parte e mi ha bloccato il ricevitore. C'è una portante fissa. Ah, ho capito, va bene. Andare. Allora è tutta un'altra cosa, non c'entra niente. Non c'entra niente con questa frequenza. E infatti, 90 brutti nulla. E va bene. Adesso fra un po', fra 4 ore inizia un'altra partita. E così se battiamo un'altra ora e mezzo a prendere della partita. E poi ne mettiamo pure una ai canuti. Oggi è la giornata intera dedicata quasi esclusivamente per mezza giornata di totale al calcio. E infatti a giudizio, da giudizio a Buruio vi sa di Rugale. E ho detto Giulio non ci sarà. Difficilmente quando c'è il calcio è difficile che io ci sono a Maracchino, Molto ma molto difficile. Quando c'è il calcio per me è tabù, quasi sempre. E infatti. Ui, anda bene mela. Infatti di tutti non entra nessuno da me e me. Vabbè, qualcuno entrerà. No, puoi dire, ieri notte a mezzanotte e un quarto ci hanno telefonato, dice. La notizia la Federazione Italiana ha promosso Davide ai campionati olimpionici a luglio. Che bella notizia. Sembrava che non fosse rientrato nelle loro misure, quelle che servono per poter andare alle Olimpiadi, invece lui che è riuscito, perché, ripeto, tanto medaglia di bronzo agli europei, non è poco, no? Questo è quasi nemmeno un mese fa, da poco, in Russia, quella l'ha fatta in Russia. E adesso a luglio ci saranno le Olimpiadi e lui sarà convocato, è convocato per le Olimpiadi. E infatti. Lui Gianca, vabbè, meglio così, almeno tiene alto il coso della Sardegna, da, diciamo così. Nella pesistica dopo Maniloni e Peppino Tanti, che a Peppino Tanti già lo conosci, abbiamo preso qualche caffè insieme anche, mi ricordo, per cui già lo conosci a Peppino Tanti. Dopo Peppino Tanti, cioè Maniloni, Peppino Tanti e Davide Ruio adesso come pesista sardo alle Olimpiadi. Non è facile andare alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi se non sei campione non ci vai. Non è così, no. Chiaro grido. E va bene, comunque. Sono contento per lui, un ragazzo che il giorno 22 di questo mese compie 20 anni, li puoi immaginare, ancora un ragazzino, per cui non è nemmeno un atleta formato al 100%, non sai quanto è, che un atleta proprio la maggiore maturità lo ottiene intorno ai 25-26 anni e alle volte anche a 28 anni, proprio per essere maturo come sport, come sportivo. Dai. Già lo so, Peppino Tanti lo conosco, sì, è stato anche l'allenatore di Angelo, mio fratello, che mio fratello faceva alzate di potenza stesse da Peppino. Peppino Tanti era nella società dove ero io, nella Polisportiva Cesarese, anzi lui è arrivato dopo di me, io c'ero proprio dall'inizio, dal 1960, io ero con la Polisportiva Cesarese. E poi è arrivato lui, anche lui ha fatto le Olimpiadi, certo. Perché nella società dove ero io c'era l'atletica leggera e anche l'atletica pesante, no? Perché lui era il più forte dell'atletica leggera e poi c'era lui come pesista che era il più forte della Sardegna nell'atletica pesante, parlando di pesistica. Sì, infatti, mio Peppino era di lusso. Peppino era forte, se poi consideri il problema che ha sempre avuto Peppino, che non lo sapeva nemmeno lui, lo ha scoperto da grande quando le hanno fatto tante visite. Se vuoi immaginare, Peppino repita, ha un solo rene, tanto ben detto in una. Dimmi tu, per un pesista è un handicap gravissimo quello, e nonostante tutto è stato 17 anni campione italiano, e per 17 anni aveva il record dello slancio, 147-500. E io lo so, ha subito parecchie operazioni Peppino Stanno, me lo diceva mio fratello, a me, Angelo è fuori che mi ero matto, ci mi avrà detto, che di lusso, cioè, ehi la voce, va 2 anni manco di me, vai Riccio. Oggi avete aperto presto il club degli anziani, buonasera. Ciao Giappa. Vedo il Riccio, se vai 2 anni manco vedendo il Riccio, per dire, per pilotarti invece alla... un anno o 2 anni più di me addirittura, sì, 80 anni mi sembra che ha, sì, 81 addirittura, perché, ma ripeto, noi ci conosciamo da oltre 60 anni perché eravamo colleghi di palestra, anche se io facevo uno sforzo diverso da quello che faceva lui, per cui va bene così. Comunque la Polizia Ultima Sari è sempre stata una gran bella società, una società di personaggi vincenti. Avanti Giacca, buonasera. Sì, buonasera, ha detto oggi avete aperto molto presto, quindi meglio così, non siete andati al mare, no? Natali, tu che ne hai bisogno, sei andato al mare a prenderti un bel po' di biglia di abbronzatura. Non stavo facendo cose, non ne ho avuto il tempo neanche. Non lo so se domani me ne vado al campo, che c'è una gara, mi pare, sì, la gara c'è. E così mi guardo la gara, non faccio niente, non mi sono né iscritto né niente alla gara. Vado a vedere, tanto per riallacciare i rapporti. Non sono in condizioni ancora. Sì, ma che ne dai. Cosa ti volevo dire? No, già sto facendo l'orario io perché devo guardare la partita fra le 6, la seconda partita della giornata, e poi stanotte guarderemo la terza, se Dio vuole. E così anche oggi mezza giornata in totale è dedicata al calcio. Tutto lì, avanti Giappa. Ieri, se non sbaglio, ieri c'era l'Italia che ha anche vinto. Quella è una partita politica comunque, perché insomma l'abbiamo capito tutti, no? Che era indispensabile vincere, tanto è vero che sono in Europa che non li possono vedere i turchi, sono tutti congratulati con l'Italia, anche al G7, quindi perché non è molto simpatico quell'Erdogan, perché quando ha vinto non ricordo, non so se era col Belgio, con chi era, li ha ricevuti anche in pompa magna la grande Turchia, anche sul calcio eccetera eccetera. Voglio vedere adesso cosa dice. Cosa vuol dire? Adesso si vedrà, il campionato continua, adesso la prossima partita incontreremo la Svizzera. Oggi la Svizzera ha pareggiato col Galles 1-1, ha pareggiato, la prossima partita dell'Italia sarà quella contro la Svizzera e saremo a vedere cosa succede. Così, vista la differenza tra oggi e ieri, considerando la qualità delle squadre, l'Italia dovrebbe vincere anche contro la Svizzera, perché mi risulta che gioca molto meglio della Svizzera, non ci sono dubbi. Va bene, avanti Natalia. E comunque i turchi erano tosti, si difendevano un bel bene, hanno sudato mi. E in più avevano anche l'arbitro, cazzo lì sono frusciava nuda. Ma diciamo che l'arbitro un po' di errori se li ha fatti, non ci sono dubbi, che è un fuori gioco evidente, era certo correre, il rigore che c'era sicuramente a favore dell'Italia madonnale, gli altri due però che sono stati reclamati dall'Italia per me non c'erano, perché il tocco di braccio era troppo aderente al muro, al corpo, e dunque non occupava lo spazio corporeo, come dice il regolamento del calcio. Mentre invece quello, l'ultimo, il terzo cosiddetto fallo di mano, quello lì era evidente, quello da sanzionare, mentre invece l'arbitro ha lasciato correre, pazienza, dove va? Purtroppo anche gli arbitri sbagliano. Vai Gioca. Sì, ok, io mi allontano perché non posso competere, quindi so giusto, dal calcio so giusto che tirano a calcio una palla rotonda, di più non posso dire, quindi il mio massimo sotto quell'argomento è proprio che hanno una palla rotonda a cui tirare calci, quindi rimango in ascolto, faccio delle cosette qua al computer e niente, mi sto un po' a riposare. Riprendi Natalie. E vabbè, vuol dire che rimango solo quando se ne va Giulio. Vai, va. Buon QRX allora. Io ho già fatto un po' di cose, anche la prolunga mi ho fatto. Tanto non c'era nessuno e allora ne ho approfittato a mettere a posto un po' di cose qua. Ok, sì, beh no, rimani Gioca, tanto io adesso fra un po' devo staccare, perché ripeto, come già annunciato, alle 6 c'è la partita e dovrebbe iniziare fra un po', per cui ti lascio in compagnia di Natalino e potete parlare di quello che volete, ma al limite anche quando ci sono io se un argomento non è trattabile, per la tua idea si può sempre cambiare argomento, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Così, non è obbligo per forza parlare di calcio, si può parlare di altro anche. Allora ti Gioca. No Giulio, figurati, no, non mi permetterei mai di dire qualcosa contro le ragioni, tutto è buono, l'importante è che si usi la radio, qualunque argomento va bene. Cosa volevo dire? Boh, non me lo ricordo più. Poi Natalie soffrì anche di solitudine. E oggi non è entrato, anima viva, non è entrato. A proposito, guarda un po', sono col 3009 l'MB più 4 e mi ho fatto la prolunga per il microfono. Come sto uscendo? E ce li ho lontani, a 5 l'MB più 4. Per me va molto bene, io ti sento benissimo Natale. Il segnale è anche abbastanza robusto, non è che me lo permette gli occhiali perché anch'io sono mezzo CB oramai e quindi fai bene, anche Giulio lo sento bene lo stesso, quindi non problema. Ma come mai non c'è la portante a proposito? Comunque evidentemente sta riposando, poi è andato a abbronzarsi le chiappe chiare, sarà andato al mare. Infatti me lo stavo chiedendo, oppure si è stancato perché nessuno le dava più retta, chissà quante maledizioni si è collezionato quel tipo tutto lì. Vabbè, comunque mi allontano lo stesso, sono qua però mi allontano lo stesso perché mi devo pulire un mouse che è mezzo andato. Ok, vabbè, cambialo il mouse, cambialo. Così tanto io l'avevo cambiato anche da poco, tanto per quello che costa. Va bene Gioca, dai, io vi saluto allora, ciao Gioca, io vado, così mi siedo di nuovo giù nella sala, nella porta del visore più grande. Ci sentiamo. Ciao Natalino, grazie per la chiacchieratina, scusa se non mi posso trattenere. E ciao Gianfranco, io ascolto il Pivarino e dopodiché chiudo. Vai pure Natalino, vai. Va bene, buona partita, allora buon proseguimento di serata e ci sentiamo. A Gianfranco l'ho già salutato, io pure mi rimango in quel Rix. Sì, ok Giulio, buona partita allora e buona cena per dopo. Ci sentiamo, dai. Tanto penso che quanto durerà, una settimana questa partita, una settimana di partite, poi si ritorna alla normalità. E niente, poi vabbè, Natalia, anch'io sono qua in ascolto, se c'è qualcosa siamo qua, pulisco questo mouse e poi vediamo un po'. E ok, sono in quel review anch'io, dai, non c'è problema. Ora attenzione, binario 10 K. Antonio, sono avanti. E chi sono? Natalino, sì, c'è 950 qua, che vuoi che sia. E con cosa sto modulando secondo te? Secondo me, ma tipo un superstar, una radio del genere. Mi ho fatto la prolunga per l'MB più 4, questo è l'MB più 4 normale a 5. Sto usando il 3009. Bene, sto uscendo, ce l'ho lontano, mi. Quanto è lungo il braccio è lontano il microfono. Una bomba, 950 radio 5. Cappa, va bene, là. E così almeno, e io ho fatto un po' di pulizia qua, mi ho fatto la prolunga per l'MB più 4, adesso è un bijou. Cappa, c'è appena più su di 9,50. Io come ti arrivo, fondo scala? Prova. 1 e 3, prova. Al superstar, se te lo dico ti metti a ridere. 9, quindi dovresti essere 9,10, e lo smitter è secco questo. Vai, o te la drizzo, attacco qui su cosa, te la drizzo su Smitter. E tu provaci, che ti telefono alle 2 di notte. Mi dispiace di svegliare a Sara, ma se ti sveglio. Ecco, adesso l'ho acceso. Lascialo scaldare appena. Non ce n'è bisogno. Se io esco con 2 watt e mezzo, esco con l'altro. Non ce n'è bisogno di attaccare niente. Poi non c'è nessuno, né propagazione. Cosa attacca fa? A consuma corrente. Io spento il baracchino, non lo faccio modulare. Cappa, buonasera Tino. Buonasera, allora, ciao Natali. Ciao Tino. E io come sto andando? Quanta mona? Cava. Non lo so come ti arrivo io, però ti sento bene lo stesso, anche se c'è Platamona. Sì, dai, posizionato un pochino lì dalla rotonda. No, il mio Smitter non va bene, dai, no. È inutile darti i controlli perché vi sento solo in radio. Capo, qua arrivi bene, Santiago 7, Tino. Andare. Santiago 7 e 8 modulati. Non so Natalino come ti copia, ma qua va bene. Oh, va bene, dai, che me ne scendo a prendere un gelato. Ciao, divertita, va. C'è una radio allucinante, ma la rotonda sì. Eia, solo con il mio il 48 modificato, dai, con il microfono normale. Complimenti. Sì, già andiamo avanti anche lui. Babbo, ciao che sto scendendo, ciao. Ciao. Avanti Natali. Natalino. E aspetta un attimo che sono al telefono anche tu. Cappa. Non parli più adesso. Attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio K. Hola. FM, da, che era in banda laterale quello lì, che stavo ascoltando a vedere se c'era propagazione. No, volevo vedere solo quanto mi arrivi tu. Capo, ma vuoi quanto ti arrivo? No, liscio, non rompere le scatole, Antu, liscio, che mi serve il segnale tuo, perché devo tararmi il 3009 che è tremendo, che mi arrivi Santiago 9, non è possibile. Capo, come ti arrivo così? Fondo scala, non ce n'è più. No, sacca, io che mi serve il segnale giusto, Antu. No, c'è niente, ecco qua, guarda per vedere. Come mi senti adesso? Sempre fondo scala, non mi va bene il segnale. Devo avere un segnale di 9 almeno, là. È attaccato il suo delinquente. Ma non è vero, non è vero, perché c'ho pochi batti e te lo posso dimostrare. Se no attacco lo strumento, ma te lo posso vedere quanti batti dopo il scende. No, però mi arrivi fondo scala. No, siccome questo è digitale, lo Smither, non va bene. Perché io nel 3009 ho lo Smither normale e devo trovare qualcuno che mi arrivi Santiago 9 qua, così me lo regolo il Superstar, capito? Perché lo Smither è troppo avaro, è tremendo questo Smither. Prova. Col portatile mi arrivi, no, prova. Sei sul più del 30. Ma mi arrivi più di 9, non andare. No, 9 mi arriva. Allora Natalì, non ti posso fare niente io. Cioè, con l'antennino del capo ti arrivo a fondo scala, è della verità, eh. Oi oi oi. Manco ricoccuig. Beh, Antu, che sono al telefono un attimo. Antonio! Dica! Fondo scala mi sta arrivando. Col portatile più di 9, dimmi tu. Siamo troppo vicini, no? Andare. Devo trovarne uno che mi arriva a Santiago 9 e così posso tarare l'altro. E adesso esco con l'altro. Ok, no. Guarda, bene va così. Va benissimo Natale, io ho pochi watt. Anche io, 5 watt, cosa? No, 4, 5 watt parlati. Capa, poco fa era un po' di più, era. No, poco fa erano 2 watt e mezzo, erano. No, io poco fa ero di più. Vabbè, cosa... io c'ho questo che è omologato lo stesso, più di 4 watt non dà, l'altro ne dà 2,5 e quindi no. Poi ne ho anche un altro più piccolo omologato stesso, quello non anda a mancarruccio. L'altro giorno da lì in Sicilia sono arrivato 9.40 e Radio Super 5 stanno smatterando anche il canale. Sì, può darsi, mi stavo sbagliando il microfono. Invece di usare questo stavo usando quello di Tina. Può darsi. Benvenuto con là, dice, ti sento nell'altro canale, ti sento. Ma dove sei? Mi ha detto. E tu non rubo di digheri in Sardegna. Cappa, ma stavo dando il meglio di me, stavo dando. Qualche giorno me l'ho preso. Vediamo un po'. Beh, non si sa mai che ne viene con la televisione in mano qualche d'uno in chiave. E mi racconta a capo. E di là dove quanto ti stavo arrivando, Antu? Non penso a fondo scala, ma non lo so perché c'erano, c'è. Già c'è, ma a fondo scala era. Si vede poco. Quel potabile è bello, eh. E mo' fatto la prolunga, mo' fatto per questo qui. Non c'era nessuno. Hola, chicos. Già siamo qua. Comunque sono contento che ho risolto qua. E ho fatto un po' di cose, capito? ho messo a posto la situazione. Hai fatto bene. Cappa. Cazzo, io apro i nocchi. Madonna che cava giù. Ecco qua. Ma che potente lo battato, ma sta lì. È un caso da morire. Me lo posso immaginare, Antu. Me lo posso immaginare. Che poi qua siamo su, quindi sale tutto su il caldo, capito? Aspetta un attimo che faccio una fotografia, faccio. Vediamo qua se c'è. Ecco. Che faccio una fotografia, Antu. Fai, non ti preoccupare. Eccomi qua, Natali. Guarda a vedere se andrà bene, Meda. È già un grido che andrà meglio. Chiara, chiara. Attenzione, canale 10, ascoltate doppio rum, cambio. No, non ti ascoltiamo, no. Buonasera a todos. Bella storia, buonasera. Mi sento sovrappodurati. Mi serviva questo segnale tuo, perché mi devo regolare lo smitter del 3009, che mi sta arrivando, no, 9 mi sta arrivando qua, non andare minimo fondo scala anche da. Come 9? Qua nel 3009 mi sta arrivando 9, però già lo sai che è avaro. Bisogna che devo trovare uno che mi arriva a 9 nell'altro, così mi regolo il 3009. E anche se ti arriva a 9.30 non puoi regolare lo stesso, lo provi prima con un baracchino, guardi il segnale di un baracchino affidabile e poi lo metti lì. Cosa ci vuole? La stessa persona la metti lì. No, che è digitale questo qui e non va bene, già. Non è un baracchino affidabile, c'ho solo questo qui. Mi serve uno che mi arrivi Santiago 9 nell'altro, così mi posso regolare il 3009. Già lo so io il perché. Sì, vabbè, il 3009 da a casa già è avaro come segnale, io lo so. Vabbè, ma io mi regolo, perché sono due segnali più che devi dare. Se arriva 9, 9, 10. Se 9, 10, devi dare 9, 20. Cosa ci vuole? L'ho già appurato. Lo so, sarà 9, 10. Aspetta che ti controllo con l'altro, a vedere. Cappa, avanti. Bombolino, bomboletto, bombolone, avanti. Cappa, tu sei oltre 9,40. Sì. Natalina 9,50 e più. Già andava, dai. E Natalina lo passi da sempre. Beh, è vicino. E arrivi fondo scala già. Cazzo, se facevo lo sbaglio. Non va bene questo, no, che è digitale. A me mi serve qualche apparato che abbia lo smitter normale, là, in modo che possa, che mi arriva a Santiago 9, oppure se mi arriva a Santiago 9 a questo digitale, allora prendo e mi regolo il 3009. Comunque già lo so, mi arrivi 9.30 qua, però 9.30 non sei, dovresti essere 9.10 là, perché mi arrivi 9 al 3009. No, 9.10 è troppo poco, Natale. E quanto devo mettere secondo te? Io minimo ti dovrei arrivare 9.25-9.30. E 9.30 mi stai arrivando, infatti. Io sto facendo un 2,5 con questo. E vabbè, tu sei anche nascosto come posizione, ma io sono in alto. Ehi, Arusoggo, mi si arriva di fondo scala, non ti uso così senti. Invece con l'altro mi arrivi 9, capito? È troppo poco. Ehi, vabbè, ma io guarda, col garage mi posso regolare. Guarda il garage, poi metto l'altro, quando tu riparli, regolo, ma non mi nafuti nulla. Tanto lo so che sono 10 dB in più che devi dare. È sempre stato così, ho provato con Galassi, poi ho provato con quello, guardato quanto arriva buono e quanto arriva volante, adesso so come devo regolarmi, dai. Quindi praticamente se ascolto a te Santiago 9 devo mettere 9 e 10, così è nel Galaxy, nel Superstar, voglio dire. E tu invece in questo qua mi arrivi fondo scala, quindi non va bene. E quando ci dobbiamo arrivare? Sono 10 dB di guadagno che c'hai, no? In più, in meno, quindi tu mi dai 10 dB in più, quindi se tu mi arrivi 9,10 ti do 9,20, capito? Lo so già però che è così. Avanti, buon pomeriggio. Ma è quello il segnale nostro, Mina, sta lì, poi tu sei in mezzo, sei in mezzo tra me e anche Gianni non è lontano da te. Sì, lo so, è per quello che lì mi arriva a fondo scala, hai capito cos'è il discorso? Non è giusto manco quello, quello è troppo e questo è poco, ho tutto nuda. Chiappa. Io logico, io sono vicino, in linea d'aria siamo vicini. Poi, vabbè, il mio è preciso, il mio è, questo qua è precisissimo, non è come quello. Però cavolo, i segnali sono quelli, capito Natalia? Poi bisogna avere nell'attenuazione chi è il più forte, se sono io o se Gianni, ma penso che io lo vinco un po' perché sono vicino, quindi è normale. Ma io spegnete tutto, mamma mia, l'astro è arrivato. Gianni vi crepa tutti qua, Ciao ragazzi. Sì, se ne riesco io da dietro, tanto lo so chi è, mi l'ho visto l'altro giorno. Buonasera a tutti quanti, dai. Ciao Natalino, Antonio è il doppio. Niente, dai, avanti a chi tocca. Ci sento anche a te, buonasera. Non aspettavo di fare. Buonasera, dai. Beh, logico, ho già. Mi arrivi 9,62, immaginiamoci io. Gianni, sì, arrivo a te io. Aspetta che mi metto gli occhiali, Natali. Ripicitti, che sono col 3009. Mi ha fatto la prolunga per il microfono, adesso è un bijou, l'MB più 4. Segnale 9 più 30, praticamente il lago dello Smitter è sul più. Sì, 9 più 30, vai. Invece io quando ti arrivo già. Leggermente di meno già. Un pelo di meno di Natalino. Cioè Natalino è sul più del 30 e tu sei leggermente meno, ma stiamo parlando di fesserie. Vedi, ma arriva Santiago 9 qua. Gianni, Lubrofetta, quindi dovrebbe essere il 9.25 e io gli arrivo, io sono col Superstar 3009 e lui ce l'ha quasi uguale al mio, solo che lui ce l'avrà regolato lo Smith. Ma lui magari c'ha più watt, chi? Glielo chiederò, già, con quanti watt stai uscendo? Guarda, a strumento sono, aspetta 3 di portante bianca a picchi di 4 modulati. Vedi, sta facendo più basso di me, perché io ho praticamente 4-5 watt parlati, da. Sì, io l'altra volta l'ho abbassato, perché non aveva senso tenerlo sempre, perché praticamente l'avevo regolato quasi a manetta. Niente, l'ho riportato quasi come l'originale, forse un cicci di meno, dai, comunque sono 3 di portante bianca e a picchi di 4. Io ho 10 watt adesso. Avanti, ho capitato con l'astro e noi ci anche su dato. Praticamente il mio è un 3009 col frequenzimetro e qualcos'altro, cioè, però è preciso, il Jupix è uguale al 3009, a parte quelle due o tre cose, stiamo parlando dello stesso apparecchio. Infatti è uguale, cosa ti volevo dire? Praticamente tu mi arrivi 9, quindi dovresti essere 9,10, così è, o a 9,25 lo devo mettere. Cosa vuoi ti dica? Tu qua sei sul più del 30, quindi non so cosa consigliarti, vedi di fare una media, non so cosa dirti. No, beh, spaccato mi sta arrivando. Tu regala il nostro cucasso che ci dirò smettere a... Bisogna che mi guardi lo schema e lo guardo, così quando parla Gianni me lo regolo. Sì, l'ho toccato anche io un po' lo Smith, perché anche questo era proprio tirchio. Ma appena inserito, c'è proprio una puntina di gas in più gli ho dato, perché prima era veramente fermo, anche con segnaloni grossi. Quindi adesso diciamo che è più attendibile rispetto a prima, dai. Infatti, minimo mi rivendi sul più anche tu. Se arrivo a 9,50 a coso, a Antonio. Ehi, dimmi Natali. Stai scendo con l'alternata, Antonio. L'alternata è quasi ti copre. Dammi nessun accordo. Avanti Condor, sicuramente in barramobile. Prova. Santiago sì, Santiago sì, Marco. Ma sei 5. Aspetta un attimo, Marco, chi mi arriva a 9 spaccato, lo sai chi è? Gianni Rubroffetta, 9 spaccato. Mi arrivi Santiago 9 a 5.500, magari mi arrivi tu, aspetta un attimo che lo accendo. Ehi, Marco, dove sei? Ah, non ti sei mosso? Ma non vai in girella? Lo so, col caldo è un casino. Io non ce l'ho fatta stamattina, andare a fare la spesa, vado a fare lunedì, tanto già ne ho roba a casa, non c'è problema. Ma sarei dovuto andare stamattina, perché la domenica si cucina sempre qualcosa in più. Marco, Santiago 9, mi arrivi a 5.500. 9 arrivi, là. Santiago 9 anche a me, Marco. Guarda un po' come sto uscendo adesso. Vabbè, spostati sul 20, Marco. Ecco, però volevo sapere se stavo uscendo. Sì, adesso. Chissà cosa mi era succedendo, pigliato. Cos'è attaccato? No, niente, ho attaccato il PL diretto, ho fatto a rompendomi le balle. Sì, sicuramente a tu. Già, vai, sta uscendo. Facciamo raffreddare, c'è un po' di caldo qua, questa radio, vado con l'altro. Doppio, c'hai una leggera alternata sotto, eh? Io? Positivo. No, è il microfono questo, guarda, a vedere. Quando lo metto in posizione giusta non ne fa più. Adesso questo passaggio era pulito, perfetto. E il microfono, mi devo comprare uno di quei tappetini che si usa per metterlo sotto al microfono, di modo che non abbia contatto con nulla, se non te lo fa più. Eccomi qua, va un po' meglio adesso? Adesso va meglio. Capo, no, vabbè, sicuramente perché è troppo calore, non lo so. Adesso lo facciamo un pochettino, facciamo un pochettino raffreddare. Le ombre di gas in occhio, beh. Ma lo devo far controllare con la radio. Intanto mi fate che c'ho godo. Ho la ventola che non sta andando. Oh, è alternata, anzi, alternata. La ventola troppa. Quando non si raffredda bene ti fate che c'ho godo, mi ha dato. No, non penso che sia la ventola. Ma comunque, vedi di farlo vedere a qualcuno. Capo, ho il sospettone che mi rompe le scatole. Può capitare. Ora, forte sono. E come su? Capo, dai. Preoccupando un po' carito che è sempre come si dice. Vabbè, adesso attacco anch'io qualche altro apparato, perché così almeno girano un po' tutti, dai. Capo, fai così, fai. Mi sposto sul 20 per vedere cosa stanno combinando Marco e Natalino. Kappa, va, non c'è problema. Già fatto. Attenzione Gianni, ci sei? Ehi, un attimo che cambio l'apparato, tu. Noi siamo in tempo di cambiare. Kappa, vai, non c'è nessun problema. Oh, chi c'è? Avanti. Porta Torres, ci sei? Beh, fatto, vai già. Attenzione, attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio K. Ehi, hey, avanti, avanti. Ehi, hey, attenzione Antonio, dai. Dammi un controllo con questa radio, sentirai un po' di musica perché stanno cantando qua. KK. Vabbè, dai. Sei abbastanza forte, sì. Capo, se anche di segnale sei ancora più forte. Che radio stai utilizzando? Piccola questo qua, il GT200VX. KK, una bomba è, una bomba è. Questo va bene, ecco come la farà. È virus al vero. Faccio la dissipatore. K, pompa forte, quel cofra. Ammazza, oh. KK. E già va bene, sì, già va bene. Oh, yeah. Aspetta un secondo perché avevo una cosa. KK, dai. Scusami già, mi dispiace, ti ho sentito col portatile, ti ho sentito. Scusami se ti stavo sblatterando. Lo profeta mi stava dicendo che lo stavo sblatterando forte. Mi dispiace, cavolo. Non c'è problema, il problema è che poi Natalino non riesce a ricordare lo smitter. Capa, ma perché mi sentivi anche sopra Natalino? No, io ti sentivo sul 20 e mi coprivi a Marco. Gesù Cristo mio, ti chiedo scusa, ti chiedo. No, non c'è problema, no, più che altro è per Natalino che magari, no, non so se lo sblatteri come me, però adesso dice che stava a prendere l'apparecchio per toccare il trimmer dello speaker, dai. Perché non mi sentiva Natalino? Beh, quando sei vicino, in realtà, tutti nello stesso canale, se no si disturbano con l'altro. Ma stiamo a stare qua. Capo, perché io già sono vicino e quindi li entro da tutte le parti. Avanti il break. KK, buonasera l'amico degli Spagna, buonasera. 7251, ti bacio l'amico Gianni, avanti. Buonasera il mio hermano, operatore Gianni Delta Romero della città di Sassari, nord Sardegna, che ti supercordializza. Avanti mio hermano. KK. Ah, non vedo, avanti già. Un profeta, moria di. Ma propagazione se è andata. Capo, dai. Gianni, un profeta, mi sei? Sono sul 20. Io andiamo tutti sul 20, così a me non ho disturbato. Capo, se no non ne comprendi più nulla, dai. Andiamo lì, dai. KK. Antonio Bombolo, ci sei? Ora. Troppo. Ora. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Tre prova. Tutti morti? Non c'è più nessuno? C'è qualcuno qua? Chi è avanti? Fate l'insulina, Natali. Hola, c'è qualcuno qua? Nessuno. Ora. Allo, chi è? Ora canale 10. C'è qualcuno qua? giochetto e ti dice tu il giochetto. Occhio, senti, quel maniaco che c'ha sotto, no, non può essere, no, Giulio. Ti vedo, tu ci sei a poi scrivi la cosita, voglio bianco se capote, questo ti ha bianco se è capito. Cosa stai facendo, Giulio, hai mangiato, sì? Giulio? Hai mangiato, Giulio? È stata la cena? Come no? Secondo me tu ti hai mangiato il gatto, Giulio, a cena. Giulio? Ti hai mangiato il gatto? Qui sento me. Se mi parli sopra c'è ancora un'altra, non ti capisco più. Giovanni, mi hai parlato sopra. Cos'è, Santone? Che mi avevi parlato sopra, ho detto. E quindi non ti capisco, hai capito? Sai che c'ho due GPT qua, l'LFM 500 e quindi c'ho un ritardo di quasi mezzo secondo, da. Ma c'è Giulio che sta toccando tutti i tasti, quindi tutto, mi senti bene? Sì che ti sento bene. Ok. A posto, ti sento benissimo, a voi. C'è qualcuno? No, siamo solamente noi due per il momento. Io? Io e tu. Io sei tu? Sì, sono io. Mi ha il telefono adesso, non so con chi, ma è al telefono. Ma tra forse con cosa, con Alessia. Sono a casa? Sì, sono a casa. Comunque Giulio stava scrivendo per il baracchino, che stava toccando i tasti strani. Hai fatto bene a togliere il microfono, cioè a togliere vicino al baracchino, se no ho usato tutti i tasti e c'è buona notte, non si capisce più la fanculo. Dimmi, il telefono, scusami, aspetta, diciamo al mio. Sono in Calicia, se vuole baracchino, ti piace la magnetica, baracchino, bisogna fare la casa sua e parla con te. Chi è? Aspetta un attimo da me. Sei se queste cose, ma chi che ha messo il numero su per la notte, scusa, non è? Ehi, oh, ok, via! La macchina è finita, fai che vina, picco, picco, a pipì. Ma questo, apri la bigina, apri la bigina. E non è la bigina, senti la bigina. E poi, fai, poi abbiamo sempre cose di un capello. Poi, non c'è più bigina. Oh.